ricollocare il sogno in una posizione di sacralità, il momento del dormire, il momento del sognare in una posizione di sacralità, in una posizione rituale che non avevo calcolato. Io da anni, da quando ho cominciato a occuparmi seriamente delle comunità matrifocali neolitiche con gli studi e con i viaggi, da tanti anni sto facendo un lavoro di recupero della cultura, dei rituali che riguardano la morte delle culture neolitiche, sapendo che le culture matrifocali neolitiche non avevano il concetto della morte che abbiamo noi, non avevano proprio il concetto della morte. Per loro era semplicemente un passaggio, un transito tra un'incarnazione e l'altra, tant'è vero che loro andavano a festeggiare nei luoghi dove venivano messe le ossa dei loro antenati, andavano a fare festa, perché per loro era un momento di gioia, il momento in cui veniva lasciato il vecchio corpo e l'anima si preparava a tornare in incarnazione nei corpi generati dalle donne del clan. Quindi la cultura della morte in realtà ci è stata propinata come punto finale, come momento da temere, ci è stata propinata dalla cultura patriarcale duale, no? Quella che è basata sull'inizio e sulla fine. Nella cultura matrifocale che vibra in frequenza 1 non esiste la fine, perché non esiste l'inizio, esiste il ciclo continuo che è spiraliforme, cioè il ciclo si chiude quando si è in coscienza sempre ad un livello superiore a quello dove è iniziato e così si crea la spirale. La spirale va vista in tridimensionale, come se fosse una molla che sale, come se fosse la catena del DNA, la scala elicoidale del DNA. Studiando con Ida e apprendendo con lei le sue teorie e il suo grande sapere riguardo ai sogni, mi sono resa conto che il patriarcato ci ha fatto perdere anche la sacralità, il momento di contatto sacro e cosciente con i sogni, che poi è come dire la morte, perché quello che consideriamo morte e quello che consideriamo sogni vivono nello stesso luogo e tempo e nella stessa frequenza, che è il tempo del sogno. La morte è semplicemente entrare nel tempo del sogno e non ritornare poi in quello che noi chiamiamo veglia, che ultimamente sto cominciando a pensare che sia un'altra forma di sogno. Passiamo da un sogno all'altro semplicemente, non saprei dire quale dei due è più sogno dell'altro. Quindi si è creata questa curiosità di vedere come è stato trattato il sogno in letteratura dalle donne, perché le donne sono in grado di scriverne in una maniera più profonda, più sciamanica, passatemi la parola. Le donne risvegliate, certamente, quindi le donne che hanno fatto fatica, che hanno scavato, che hanno approfondito le tematiche, le donne di cui parleremo questa sera, quindi che non hanno parlato del sonno e del sogno come qualcosa di frivolo alla Ossian, come qualcosa di decadente, di autolesionista, di autocommiserante, ma come un luogo sacro dove avvengono magie. È questo che abbiamo deciso di indagare con Ida, io nel mio campo e lei nel suo, io più forse dal punto di vista letterario, lei più dal punto di vista antropologico e psicologico. E quindi ecco, questo è un po' il risultato di quello che abbiamo trovato finora. La mia parte ovviamente sarà molto più breve perché lei poi vi parlerà anche del sogno, oltre che delle antenate di cui vuole illustrare l'opera. La prima antenata di cui voglio parlare è Mary Shelley. Mary Shelley, figlia di Mary Wollstonecraft, la grande attivista, e di Godwin, che era tra virgolette, uno scienziato, era un uomo libero, uno sperimentatore, un uomo interessato a tutte le novità. Le novità scientifiche, quella era l'epoca del galvanismo, era l'epoca in cui si cominciavano a fare i primi esperimenti con l'elettricità sui corpi, sulle rane. E Mary Shelley è la figlia di questi due grandissimi personaggi, sicuramente una donna straordinaria. Non vi parlerò di Mary Shelley, anche perché ultimamente l'hanno fatto in tanti, sono usciti anche diversi film su di lei. Vi parlerò però del suo Frankenstein, che è un'opera assolutamente sminuita dalla cultura di massa, perché è stata ci viene contrabbandata come horror, cosa che non è affatto, perché in realtà è un romanzo, è una storia drammatica di tipo morale. Cioè, in questo romanzo Mary Shelley si interroga su che cosa potrebbe succedere a un uomo che vuole dare la vita senza avere l'utero e che cosa può creare un mostro. Perché Frankenstein, che non è il nome del mostro, ma il nome del dottor Victor Frankenstein, lo scienziato che cerca di creare la vita mettendo insieme i pezzi di esseri, pezzi di assassini, andandoli a prendere direttamente quando venivano tolti dalle forche, è un obbrobrio, è un mostro, ma è un mostro soltanto nel corpo. In realtà, lui dentro di sé è una creatura dolce e gentile che vorrebbe vivere in armonia e in pace con gli altri esseri viventi. È un romanzo veramente straziante, di una bellezza indescrivibile, che è stato manipolato, è stato destrutturato come tutti i grandi lavori delle grandi donne per renderlo, per sminuirne la valenza e la portata. Per esempio, una delle intuizioni di Mary Shelley nel Frankenstein è la memoria cellulare. C'è un brano che mi colpì moltissimo quando lessi il romanzo la prima volta, in cui il cosiddetto mostro, la creatura, parlando con il suo creatore, che è il dottor Victor Frankenstein, gli dice: "Tu sapevi che so suonare il violino? In quale parte del mio corpo è conservato il sapere, la conoscenza della musica?" Ovviamente lui non aveva studiato musica, ma questa è una grossissima intuizione di Mary Shelley sulla memoria cellulare. Chiaro, noi adesso sappiamo che le cellule sono piene d'acqua, quindi che le nostre cellule, il nostro corpo fatto all'80% d'acqua, è un archivio di tutto ciò che si è manifestato nell'umanità. Io questa cosa l'ho trovata davvero straziante, commovente. Ecco, il motivo per cui vi porto Mary Shelley è che lei fu ispirata da un sogno, nello scrivere questo romanzo. Lei lo racconta nella prefazione alla seconda edizione. Pensate che la prima edizione nemmeno la firmò, perché moltissime volte succedeva che le donne non firmassero, o firmassero con nomi maschili o firmassero con i nomi dei mariti. Lei era moglie di un poeta famoso che era Percy Bysshe Shelley, quindi non si firmò la prima edizione, la seconda sì, invece poi, perché il romanzo ebbe un successo incredibile. E nella seconda edizione lei nella prefazione racconta che nell'estate del 1816 lei, suo marito Shelley, appunto il poeta, con Byron, di cui erano amicissimi, il dottore di Byron, che era William Polidori, e la sorellastra di Mary, si trovarono per una vacanza a Villa Diodati sul lago di Ginevra, e lì furono bloccati dal maltempo e, per non annoiarsi, fecero una gara a chi scriveva il racconto più orrorifico. Era un po' anche l'epoca del gotico, quindi era una delle forme di scrittura era quella. E quindi furono partorite diverse opere, tra cui il lavoro di Polidori fu Il vampiro, che poi ispirò Bram Stoker nel suo Dracula. Ma Mary Shelley in realtà non inventò il romanzo. Lei racconta che in una di quelle notti terribili di maltempo in questo lago, sognò una creatura con la faccia gialla, che la guardava con occhi liquidi, che si affacciò, ebbe proprio questo incubo, che si affacciò dalle cortine del suo letto baldacchino, tirò le cortine, la guardò e racconta di questa faccia cisposa, rugosa, di questi occhi liquidi, e si spaventò moltissimo. Questo era proprio un incubo. Infatti nella copertina dell'edizione che ho io di Frankenstein c'è proprio l'immagine del quadro, l'incubo di, aiutami, il nome del pittore. Sai, la donna riversa sul letto indietro con l'immagine, mi sfugge il nome in questo, è famosissimo. Se a qualcuno dovesse venire in mente il nome del pittore, per favore me lo suggerisca, perché in questo momento mi sfugge. Quindi il Frankenstein è stato il frutto di un incubo ed è diventato William Blake, il quadro. Ok. Quindi questo è un esempio di incubo, di sogno che dà vita a un prodotto letterario di grandissimo spessore, di grandissimo valore. L'altra donna di cui vi voglio parlare è Pamela Lyndon Travers con la sua Mary Poppins, che per me è stata davvero una rivelazione, perché Mary Poppins, dai romanzi della Pamela Travers, esce fuori una sciamana alla Don Juan. Avete presente Don Juan di Castaneda? Una roba così, proprio cattivissima, dura, spietata nel suo modo di guidare e istruire i due bambini Banks, maschio e femmina, che le sono affidati. Mary Poppins è realmente una sciamana ed è una guardiana della soglia. E quando agisce lei, questo ovviamente non esce fuori nei film Disney, perché i film Disney avevano, a mio avviso, la chiara intenzione di ridurre, di sminuire, di rendere socialmente accettabile un messaggio che invece era forte nella sua trasgressività. Quindi hanno praticamente addomesticato la sciamana Mary Poppins, la stregona Mary Poppins, l'hanno fatta diventare una tata canterina. In realtà nei romanzi lei non si sognerebbe mai né di cantare né di danzare, è una donna forte, quasi sempre acida, sicura di sé, ma di grande energia, ed è una donna magica. Quindi la cosa interessante è che lei guida Michael e Jane durante la notte, li guida in reali percorsi sciamanici, reali percorsi esoterici durante il sogno. Quasi sempre succede che i bambini non vogliono addormentarsi perché sentono che c'è qualcosa nell'aria, devono andare a letto perché lei li mette a letto, ma poi dicono che non si vogliono addormentare. E poi succede qualcosa per cui o si apre uno spiraglio di luce, o si apre una finestra, o sentono un rumore, o ricevono un invito, insomma, in un modo o nell'altro escono dai loro letti e seguono questa sorta di indizi, questa sorta di scie, e si trovano tutte le notti in mondi magici dove incontrano animali totem, vanno sulle stelle, incontrano il serpente della conoscenza, incontrano personaggi che hanno medicine realmente sciamaniche, sotto il mare, nel circo, incontrano il leone, incontrano gli animali del romanzo sono tutti quanti. Ah, Fuseli, sì, hai ragione, non era William Blake. Sì, chiedo scusa. Sì, grazie a chi ha dato l'informazione. Quindi i bambini incontrano questi animali che sono sempre dei totem, sono sempre animali medicina, e a metà più o meno della nottata arriva Mary Poppins, che si scopre sempre essere la regina della festa, la regina della nottata, l'ospite attesissima, riverita da tutte queste creature di sogno che in realtà sono dei sogni come quelli di cui parla Ida nei suoi corsi, cioè dei sogni come dei sogni lucidi, dei sogni creati per darci informazioni, per metterci in contatto col nostro subconsciente, con gli inframondi, con le altre dimensioni, per avere messaggi nel tempo del sogno. Questi sono i sogni di cui parla Mary Poppins, di cui parlano i romanzi. I bambini poi al mattino si svegliano e non sanno mai se hanno sognato o se sono usciti realmente dai loro letti per andare a vivere queste avventure. Mary Poppins, da brava guardiana della soglia, ovviamente di giorno è guardiana della dualità, mentre di notte diventa sciamana. Quindi lei nega recisamente che durante la notte fa le cose di cui i bambini le chiedono conto. Io ballare a piedi nudi nel parco, ma voi mi offendete. Io a cavalcare un orso, ma, non, ma se mi dite ancora una volta una cosa del genere, giuro che me ne vado. Quindi lei durante il giorno è la guardiana del sogno di qua, del tonal, del sogno tonal. Poi però che cosa succede? Che i bambini trovano gli indizi e quindi si rendono conto che non hanno sognato. E fino all'ultimo comunque rimane il sospetto che Mary Poppins gli indizi li abbia lasciati proprio per quello, perché loro non sappiano mai se è vero o falso quello che hanno visto durante la notte. E del resto la grande domanda che ci facciamo sempre tutte e tutti quando abbiamo delle meditazioni o delle visioni particolarmente intense è: ma sarà vero o me lo sono immaginato? E la risposta è regolarmente: non ha importanza, perché perché se succede nella tua testa, poi succederà anche nella realtà. Prima le cose succedono qui e poi le materializziamo, le creiamo, le riportiamo all'esterno in maniera che siano percepibili dai sensi. Questa mattina mi sono riascoltata e concludo, poi perché Ida ha sicuramente tantissime cose da dirci e io ho voglia di ascoltarla. Mi sono riascoltata l'ultimo racconto del terzo volume di Mary Poppins. Mary Poppins apre la porta, non l'ultimo, perdonate, il penultimo, che è di una bellezza, lo trovate sul canale della Scuola delle Donne. Perché cosa succede nel penultimo? Che i bambini escono, Mary Poppins, prima che loro vadano a dormire, ritira tutti i loro peluche, non permette loro di andare a dormire con i loro soliti peluche e li mette tutti quanti in fila sull'armadio. I bambini naturalmente restano stupiti, ma non si fanno più di tante domande perché sono abituati alle stranezze di Mary Poppins. Prima di dormire, sanno che quando fa qualcosa di strano è perché poi durante la notte ci saranno dei viaggi, come se lei avesse un rituale che deve fare, una serie di azioni che deve compiere per poter portare i bambini nel tempo del sogno, che è un tempo reale, perché poi l'indomani mattina trovano le prove. E allora in questa notte così particolare cosa succede? Succede che a un certo punto i bambini pensano di essersi addormentati, invece si svegliano di soprassalto. Vedono che gli animali sono spariti da sopra al soffitto dell'armadio, sentono chiamare, escono fuori, escono nel parco e lì succede una cosa meravigliosa perché è proprio la notte di Capodanno in cui Mary Poppins spiega che tra il primo e l'ultimo rintocco, che l'anno vecchio finisce al primo rintocco della mezzanotte, l'anno nuovo comincia al dodicesimo rintocco, ma tra il primo e il dodicesimo, in quel lasso di tempo di 10 rintocchi, c'è un inframundi, si apre un portale, un inframundi, ed è questo il motivo per cui probabilmente noi di questa cosa ne stiamo parlando stasera, cioè il 2-1-21. Questo inframondo, questo portale, lei lo chiama lo scoppio ed è un momento dilatato nello spazio-tempo in cui tutti i personaggi delle fiabe che da sempre sono in conflitto tra di loro, sono nemici, si incontrano, si abbracciano, danzano insieme e si dichiarano amore, affetto. Quindi Cappuccetto Rosso balla con il lupo, Riccioli d'Oro balla con i 3 orsi, l'unicorno balla con il leone. Quindi tutte c'è questa, diciamo questa danza d'amore in cui in questo tempo di 10 rintocchi, che è un tempo lungo perché dura tutta la notte, quindi siamo nel tempo del sogno, il tempo è dilatato fuori dallo spazio-tempo, che noi conosciamo lineare, cosa si fa? Si entra nella quinta dimensione, si entra nella frequenza dell'unità dove non esistono più conflitti, dove non esiste più la dualità. Perché? Perché i nemici, le nemiche delle fiabe si riuniscono e danzano insieme e si dichiarano amore. Questo è quello che succede nello scoppio, in questo lasso di non tempo, quando poi i bambini alla mattina tornano, si svegliano, quindi come al solito non sanno se hanno sognato, se veramente sono stati nel parco a danzare con i personaggi delle fiabe. Per esempio, Jack e la mazza giganti con il gigante, Jack attaccato all'orecchio del gigante, quindi fanno la pace e quindi il gigante non è morto, è in un lasso di tempo in cui sono vivi entrambi e si vogliono bene e sono amici. La mattina, ecco, ovviamente la campanellina che ci fa capire che c'è qualcosa di magico in tutto questo è che i bambini fanno lo stesso sogno, quindi è chiaro che non può essere non può essere, diciamo, un prodotto della fantasia. Evidentemente Ida, loro sono riusciti a sognarsi insieme come hai tentato di insegnarci all'inizio del corso. Ti ricordi che dovevamo avere ciascuna il suo oggetto da portare nel sogno? Ecco, loro lo fanno perché fanno lo stesso sogno. Alla mattina si svegliano e dicono a Mary Poppins: ma questa notte eri tu che danzavi? E lei naturalmente si indigna come sempre, non fa la parte della governante vittoriana, no? La decenza, io assolutamente mai, e va a preparare la colazione e mentre si gira i bambini si accorgono che le loro ciabatte sotto al letto sono inzuppate d'acqua è che le scarpe di Mary Poppins sono sporche di erba bagnata. Quindi hanno la prova, l'ennesima prova, che non è stato un sogno, che è stata la realtà. Ogni notte nei romanzi di Mary Poppins c'è un viaggio iniziatico dove lei porta, lei maestra sciamana, porta i bambini a fare un viaggio per apprendere i segreti della quinta dimensione e ogni mattina poi loro ritornano nella dualità. E con questo io ho detto, ho parlato, lascio la parola alla mia carissima sorella e mi appresto ad ascoltarla che ne ho proprio tanta voglia. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Allora, su questa scia, su questo input che tu ci hai dato, poi magari cercheremo, io cercherò di essere spedita perché così magari andiamo proprio ad aprire questa porta, no? Ed entriamo in contatto anche con il mondo delle favole. Abbiamo esplorato questo mondo in un corso fatto poche settimane fa, è stato meraviglioso. Perché c'è una forte connessione tra il mondo del sogno e il mondo praticamente delle favole, dei personaggi immaginali, della cosiddetta fantasia. L'invito di Devana è stata una sfida. È stata una sfida perché, come tutte le cose che Devana, dire, ci incita a fare, è una sfida molto interessante perché effettivamente questo argomento delle donne, la letteratura del sogno, è un argomento che apparentemente, è complesso perché è sommerso. Se ne parla poco. Si dice poco, ma in realtà c'è tantissimo materiale, tant'è vero che abbiamo dovuto fare una scelta. Lei ha portato queste due esperienze, no? Esperienze di questi due racconti. Io invece porterò a mia volta soltanto altri due racconti, perché in verità è come stato come aprire il vaso di Pandora abbiamo scoperchiato praticamente il mondo del sogno. Il mondo del sogno è un mondo femminile. Tutti gli esseri umani sono dei sognatori, le donne per eccellenza sono delle grandi sognatrici perché il sognare è qualcosa che riguarda la parte inconscia, la parte immersa dell'anima, del mondo. E qual è questa parte immersa, questa parte invisibile? È veramente quella del lato notturno, quella praticamente del lato invisibile della nostra vita. Quella che viene definito il mondo del sogno, che si annuncia come nella mitologia, attraverso un'immagine di una dea bellissima che è Nocte. Nocte è la creatrice del mondo dei sogni, della volta stellata, ed allo stesso tempo nasce insieme a Caos, ancora ai primordi del mondo, per portare la creazione del mondo attraverso l'opera del lato notturno, del lato invisibile, del lato inconscio, del lato lunare, del lato femminile. Quindi quando sogniamo, tutti noi esseri umani siamo in contatto profondo con Nocte, siamo in contatto profondo con la madre dei mondi, con la grande creatrice. E siamo in contatto profondo con il lato femminile che vive in ognuno di noi. Quindi il sogno è veramente avvolto da questo alone di mistero, ma ha una sua energia. La vita nasce dal buio più profondo, la luce nasce dal buio più profondo. E immaginate che allo stesso modo nascono i nostri sogni, nascono nel buio più profondo, sogni che poi influenzeranno la nostra vita. Quando sono stata in Egitto, ho incontrato Nut, che è la controparte della cultura egiziana, la controparte della cultura greca, la dea Nut appare sotto le volte del tempio con il manto stellato, e protegge praticamente tutte le creature del mondo. Davanti a questa immagine, sono passati 18 anni, eppure questa immagine è rimasta così fortemente impressa dentro di me che sono convinta, sono pienamente convinta, anche per quello che vi racconterò più tardi, che davanti, cioè che questa immagine ha stimolato la mia ricerca profonda rispetto a questo tema e mi ha condotta qui. Questa sera a sognare insieme a voi. E quindi quando sogniamo, prestiamo attenzione, ridoniamo una veste sacra al sogno, noi siamo in contatto davvero con qualcosa di così potentemente nostro che non riconosciamo perché gli strumenti ci sono stati tolti. Il mondo per gli aborigeni, per tanti popoli delle culture praticamente di natura, cosiddette culture sciamaniche, si crea durante la notte, si crea sognando. La vita si crea sognando. Tutto quello che ti accade durante il giorno si crea praticamente attraverso l'opera del sogno, questa grande opera del lato inconscio della madre dei mondi. Quindi, la scelta di portare i sogni delle donne, come vi dicevo, non è stato semplice. Vi citerò velocemente dei sogni famosi della letteratura, come per esempio il sogno di Penelope. Nell'Odissea, Penelope sogna le aquile e le oche, sono veloce in questo, poi andate a cercare il sogno di Didone, della regina Didone nell'Eneide, rispetto al suo amore per Enea, e poi ancora nella tragedia di Eschilo invece abbiamo il sogno di Clitennestra che invece sogna questo grande serpente che poi Oreste, che le succhia sangue e latte al seno, e poi ancora un sogno famosissimo è il sogno di Calpurnia, la moglie di Cesare. La moglie di Cesare aveva sognato la morte del marito, gli ha raccontato praticamente, lo raccontavo pure questa mattina, ma io lo racconto sempre nelle classi dei sogni, che aveva raccontato a Cesare, e Cesare aveva ascoltato Calpurnia perché sapeva che la moglie. C'è un bellissimo libro che si chiama L'ombra di Calpurnia, questa grande donna che è stata Calpurnia, la grande intuizione, e però sapete bene che poi sono riusciti a insomma, coloro che avevano complottato contro Cesare sono riusciti a portarlo al Senato dicendo: Ma che vuoi che sia il sogno di una donna? Calpurnia aveva visto la morte di Cesare, di suo marito. Maya, la madre di Buddha, ha sognato l'arrivo di Buddha, di questo fanciullo su un elefante bianco, un elefante regale, e ha capito praticamente che da lì a poco sarebbe rimasta incinta sicuramente di una creatura preziosa. Suo figlio poi divenne Buddha. E così ancora nel cristianesimo Santa Monica sogna questo ragazzo che è Sant'Agostino, suo figlio, e la e Santa Monica sogna proprio non mi viene il termine Dio. Praticamente il passaggio di Sant'Agostino alla vita praticamente di santità. Quindi tantissimi sono gli esempi di donne che hanno prodotto sogni importanti. C'è una pittrice, per esempio, che viene chiamata Atalanta di Campofiore. E lei è la cosiddetta pittrice di anime, è una pittrice degli anni 50, quindi vi cito varie donne, e questa pittrice, per esempio, tutte le sue immagini, le immagini dei suoi quadri nascono nei sogni. Andiamo invece alle donne che hanno fatto ricerca. Tantissime donne hanno fatto ricerca nel mondo antropologico, tantissime sono le donne che sono andate a vivere praticamente durante gli anni 70. Michelle Stephen visse con i Mekeo nella Papua Nuova Guinea e fece ricerca del sogno insieme a questa popolazione, come anche Sylvie Poirier, che visse con gli aborigeni australiani per circa 10 anni, dagli anni 80 agli anni 90, erano antropologhe. E così ancora una scrittrice che ho trovato molto interessante, anche giornalista americana, è Alice Robb, che ha scritto Why We Dream, perché sogniamo. E dalle scrittrici alle giornaliste, alle antropologhe, passiamo poi alle analiste. Moltissime sono le analiste che hanno studiato i sogni, soprattutto le alunne di Jung, e vi segnalo Silvia Brinton Pereira, che ha scritto un libro molto interessante sul simbolo del sogno. E quindi in realtà, scavando, scavando, in realtà sono uscite fuori tantissime donne che si sono interessate a questo argomento. Ma volendo rendere più interessante per noi il racconto di una donna che ha vissuto il sogno nella sua vita e che ha lasciato una documentazione molto interessante, ho deciso invece di occuparmi stasera di due storie. Una riguarda Joan Grant, con il faraone alato, che è un romanzo del 1938, e l'altra è una storia di tramando orale, La sciamana Teteche, di cui parleremo dopo. Veniamo alla prima protagonista. Innanzitutto un'immagine bellissima cioè l'immagine di questa donna, di Joan Grant. Il suo vero nome è Joan Marshall, nasce il 12 aprile del 1907 a Londra e vive un po' tra l'Europa e l'America. Si occuperà soprattutto questa donna di parapsicologia, essendo lei stessa. Avendo lei stessa un'attitudine alla premonizione. Ed è figlia, questo lo diciamo, è figlia di Blanche Emily Hughes. Di sua madre non si racconta nulla, però mi sembra giusto citarla. Sposa tre uomini, che il primo marito le darà il cognome, lascerà poi il cognome Marshall e prenderà questo con cui è più conosciuta, che il cognome Grant, e sposerà un primo uomo che è un archeologo con il quale andrà in Egitto ed andrà praticamente in Iraq. E durante questi viaggi lei scoprirà, cioè no, scoprirà, avrà una conferma di quello che ha sempre pensato e creduto, e cioè che il velo tra i mondi, almeno il velo tra i mondi per lei non esiste, in quanto Joan Grant sarà colei che fonderà una scuola sulla reincarnazione, baserà tutta la sua vita e tutti i suoi scritti su questi ricordi della reincarnazione. Durante poi il suo primo matrimonio, durante questi viaggi, avrà modo, una volta recatasi in questi paesi, di sognare, di collegare attraverso i sogni i suoi ricordi alla vita in Egitto. Più tardi sposerà un altro uomo che racconterà dei suoi romanzi in radio, registrerà i romanzi della moglie, ne parlerà per Radio Luxembourg. Quindi ho trovato molto interessante questa alleanza che Joan riesce a tessere con gli uomini. Credo che doveva essere una donna di grande fascino, e quindi è riuscita a portare dalla sua tutti gli uomini che lei ha incontrato, e tutti sono stati suoi alleati e hanno fatto il meglio per lei. Tant'è vero quando arriverà al terzo matrimonio, sposerà uno psicoanalista, rivoluzionerà la vita dell'ultimo marito, perché metterà a disposizione la sua grande, arte intuitiva, arte premonitiva, il suo ricordo praticamente. Sulle varie incarnazioni, aiuterà il marito a curare letteralmente moltissimi pazienti. Troverete per quanto riguarda John Grant una copiosa e abbondante letteratura, ha scritto tantissimi romanzi, ma la cosa interessante è che alla fine praticamente di tutti questi racconti, lei praticamente afferma che tutto quello che ha scritto viene da una memoria lontana, viene dalla mia capacità di ricordare le vite precedenti. Non c'era assolutamente nessun sforzo per lei in questo ricchissimo programma letterario, e anche nei racconti, perché fa anche dei racconti per bambini. Si dice praticamente che lei stessa avesse una consapevolezza sensoriale un po' diversa dagli altri, dalle persone praticamente dell'epoca. E tant'è vero che ispirerà Cage. Comunque ci sarà molto, molto ritenuta molto una studiosa dei fenomeni paranormali, molto. Considerata, cioè considerevole, e il suo romanzo, che è il romanzo di cui parleremo stasera, Il faraone alato, è un romanzo che addirittura all'epoca, nel 1937-38, questi sono i 2 anni, divenne un bestseller, quindi ricevette praticamente tantissimi premi per questo romanzo. E cosa racconta nel suo romanzo Il faraone alato? Racconta di questo suo ricordo della sua vita in Egitto. Innanzitutto racconta di una scuola presente in Egitto all'interno della quale si andava praticamente a sognare. Nelle mie lezioni dei sogni, parlo spesso dei sogni dell'antichità, anzi una delle mie lezioni preferite, e per me leggere in contemporanea, quello che scrive Joanne, avendo studiato i sogni dell'area mediterranea, mi ha dato semplicemente la conferma che tutto quello che è stato trascritto dei sogni nell'antichità, probabilmente lei stessa lo ha ricordato. Dunque, nei templi di Anubi, Anubi chi è? È il dio sciacallo, no? Il cane nero. Cane dei mondi, il cane di Ecate, i cani dell'oltretomba, ancora i cani della soglia nella cultura peruviana, il grande, grande Thoth, il grande Thoth, Anubi e Thoth, il grande maestro Ermete Trismegisto. Nei suoi templi si andava per sognare. La protagonista del romanzo è Sekita. Sekita riceve da piccola mentre vi racconto questo romanzo, provate ad immaginare, a chiudere gli occhi proprio a vedere queste immagini. Riceve da piccola dalla mamma una statuetta del dio Anubi, di questo cane nero, di questo sciacallo, perché in Egitto all'epoca si riteneva che i sogni venissero portati ai bambini grazie ad Anubi. Dopo alcuni anni, Sekita incontra un sacerdote di Anubi che diventa il suo maestro e addestra Sekita stessa al sogno. In sogno, lui le mostra un fiore aperto di loto e le dice che come il loto apre i suoi petali al sole, così lei stessa deve aprire la porta della memoria dell'anima. Poco fa abbiamo parlato della porta di Mary Poppins. Anche Sekita, la principessa Sekita, deve aprire una porta. E per aprire questa porta, una volta che apre questa porta, la memoria dell'anima, si rifletterà. Il giorno dopo, nella vita diurna, nel lato diurno della vita di Sekita, la scena incontrata nel sogno si ripete nello stato di veglia. Sechita quindi è pronta per cominciare il suo apprendistato rispetto al sogno. E cosa sognerà? Sognerà eventi futuri, sognerà oggetti perduti, sognerà anche l'attacco al regno del padre. E a 12 anni, così fortemente addestrata, va a vivere nel tempio di Anubi. Accanto al suo letto, oltre ad avere la statuetta di Anubi, di Thoth, ha quello che noi chiamiamo il quaderno dei sogni, ha una tavoletta di cera sulla quale tutti i giorni, tutte le mattine, segna i suoi sogni e li porta dal suo maestro. Viene addestrata a viaggiare, viene addestrata praticamente a viaggiare nei mondi, ad andare in posti lontanissimi, le vengono assegnati proprio dei compiti per sviluppare quest'arte e soprattutto la capacità di uscire fuori dal corpo. Finché non arriva all'età di 15 anni, quindi passano 3 anni di addestramento ancora, trascorrono ancora 3 anni, e nelle notti di luna piena, finalmente Sekita è pronta ad essere portata in una stanza speciale, una stanza però protetta. E qui le vengono assegnati dei compiti ancora più importanti. Le viene assegnato praticamente il compito di aiutare le persone nel passaggio verso l'aldilà, nei regni dell'aldilà. Ovviamente Sekita impara a viaggiare in astrale e salverà tantissime anime che muoiono e che non sanno come dirigersi dall'altra parte, oltre la soglia, e conforterà moltissime invece persone tramite il sogno, tramite il viaggio astrale, conforterà moltissime persone. Che hanno perso invece persone care, e qui viene raccontato nel romanzo come praticamente Sekita si occuperà di una donna e della storia della perdita della sua famiglia. In fondo, in questo romanzo viene rivelato cosa facevano realmente gli egiziani e le egiziane con i sogni. E vi invito a leggerlo, una scrittura veramente interessante, che si può, lo troverete su Amazon il libro, perché è un libro un po' datato. L'altra storia invece che vi porto è quella della leggenda della sciamana Nishan. Quindi voliamo da una parte all'altra dell'emisfero. Questa è una storia Ida, scusa, giapponese. posso soltanto fare un piccolissimo intervento perché anche Mary Poppins alla fine del terzo volume apre la porta e se ne va e lascia, diciamo, il mondo, il tonal, il mondo cosiddetto oggettivo, reale, lascia i due bambini Banks e se ne va. Lei alla fine di ognuno degli 8 romanzi se ne va e poi ritorna in quello precedente, dove va non si sa, probabilmente va in un mondo parallelo, come i nuclei degli atomi quando spariscono e non si sa dove vanno. Ma la cosa interessante è che alla fine di questo terzo volume, che si intitola appunto Mary Poppins, apre la porta. Come fa Mary Poppins ad andarsene? A un certo punto, l'ultima sera, i bambini devono andare a letto perché quella è il cliché, quella è la liturgia, diciamo. I bambini devono andare a letto, guardano fuori dalla finestra e si accorgono che fuori dalla finestra, proiettata sulla parete della casa di fronte, c'è una copia della loro stanza, cioè vedono tutta la loro stanza, se stessi, i loro letti, al di fuori del vetro, proiettati come se fossero riflessi, sulla parete della casa di fronte. E quindi Jane si chiede, ma io quale sono? Sono questa qui o sono quella di là del vetro? Ricordiamo che Pamela Lyndon Travers fu allieva di Gurdjieff e per sua stessa ammissione Mary Poppins viene da una base di esoterica, di ispirazione esoterica. A un certo punto i bambini capiscono che Mary Poppins se ne sta andando, si voltano, ce la cercano, non la trovano, la vedono dove? La vedono fuori. Nella notte riflessa, la vedono nel riflesso delle loro stanze che apre una porta, ma una porta che non è nella loro stanza, è al di là del vetro, quindi è già nel tempo del sogno, nel mondo di là, Lei apre la porta, esce da quella porta e rimane, dice letteralmente, appesa col suo ombrello nel buio. In quel momento tutta la proiezione scompare, il riflesso scompare e loro vedono Mary Poppins che se ne va, ma è fuori, è dall'altra parte, quindi non esce dal Tonal, esce dal Nagual e poi ritorna nel quarto volume. Mi sembrava carina questa specifica dell'apertura della porta, perché evidentemente dobbiamo aprire una porta che non è qui, in questa dimensione, ma è riflessa al di là del vetro. Bisogna arrivarci e capire come fare. Nel romanzo di John Grant, la cosa che è interessante è la porta che viene fatta ad aprire a Sekita nel sogno, nel momento in cui tu vedrai apparire l'immagine che sogni nella vita diurna, si aprirà la porta della memoria dell'anima. Da lì trapasserà la luce e tu inizierai a ricordare i due mondi e a collegarli. Primo. La seconda cosa è la stanza del sogno. E nel mondo antico le persone venivano portate ai templi a dormire per incubare i sogni. Quindi nel romanzo chiaramente si parla dell'arte dell'incubazione, che ogni popolo, dai babilonesi, ai sumeri, agli egiziani, ai greci e ancora un po', perché fino ad Artemidoro, al secondo secolo d.C., si mantiene l'arte dell'incubazione e poi sparirà, quindi fino a quel periodo lì, praticamente esistono proprio dei luoghi dove andare a dormire. È interessante che invece nel romanzo non solo si parli del tempio, ma si parli proprio di una stanza speciale, una stanza protetta. E quello che sempre dico agli allievi, noi sognatori, alle sognatrici, preparate bene la vostra camera da letto, perché la camera da letto è una navicella, quindi non entrate con le scarpe, abbiate cura di questo tempio, abbiate cura della vostra camera del sogno, perché si può trasformare in un tempio, sta a noi rendere praticamente questo luogo sacro, magico. Quindi mi colpiscono questi elementi che sono sì elementi di un romanzo, ma dietro c'è tutta una, anzi, John Grant dice che lei ne ha pienamente ricordo. E poi studiando lei ho scoperto una cosa interessante prima di passare all'altra autrice, ho scoperto che la stessa Cleopatra aveva spostato i templi del sogno nei templi di Serapide. Questa cosa ovviamente non l'ho approfondita, ma ho fatto un collegamento con la mia città. Io vivo in Calabria, ma sono napoletana e noi a Napoli abbiamo tutta un'area praticamente dedicata al mondo egizio e sappiamo del passaggio degli egiziani, non solo come commercianti, sappiamo bene che ci sono stati culti Sirei e ci sono stati culti di Serapide. Quindi quando ho letto questa cosa, ho collegato immediatamente, ho avuto la certezza, il ricordo, chiaramente una mia. Non è scritto da nessuna parte, ma mia interpretazione, che probabilmente anche a Napoli, in città, perché fuori dalle mura di Napoli si andava a sognare della Sibilla Akuma, anche nella stessa città di Napoli, chiaramente, una città greca, si sognava e si sognava nei tempi di Serapide. Non vi ho citato le Sibille perché non posso citarvele tutte, ma le oracolesse sono tutte grandi sognatrici. Hanno non a caso nei loro templi dei sedili di pietra sui quali il sognatore va a incubare, o la sognatrice va a incubare praticamente il sogno. Vi dicevo del secondo racconto, la storia che vi porto è una storia di tramando orale ed è più che altro un'esigenza portarla qui perché insieme a voi vorrei sognare un finale diverso per la sciamana Nishan. Chi è la sciamana Teteke, il suo nome? Nishan è il nome del fiume presso il quale questa sciamana abitava. Questa storia è una storia di tramando orale. ed è una storia talmente potente che diventerà la storia della letteratura manciù. Vi parlo delle popolazioni mongole, della popolazione Daur, delle popolazioni della Manciuria, quindi una storia mitemica che addirittura ha raggiunto il mito e che parla di una donna, di una grande sognatrice di cui queste popolazioni hanno un profondo rispetto. Perché stasera vi porto questa donna? Perché non si sa dove e dove sia finita Teteke o Teteke, a seconda di come la sentiamo nel cuore, la sciamana Nishan. Come inizia la sua storia? È un mito, quindi è un racconto che viene dal mondo del sogno, dal mondo della favola. C'è un giovane benestante che fa parte di una tribù e che si chiama Sergudai e va a caccia. Va a caccia non rispettando tutto quello che il padre e gli anziani della sua tribù gli hanno insegnato. Va a caccia e uccide gli animali senza rispetto, per il puro gusto, per il puro piacere. Ad un certo punto, un giorno, ammazza una grande cerva per le meravigliose corna che questo animale aveva. Quindi, con questo sadico gusto, uccide questo animale. Speciale, questo animale speciale per gli spiriti della foresta. Gli spiriti della foresta e gli spiriti degli animali decidono di ribellarsi e quindi contattano Irmukan, che è il signore della morte, perché l'ordine delle cose è stato turbato. Perché l'ordine naturale della vita è stato turbato. Il signore della morte allora decide di mandare la sua ombra a caccia di questo giovane e lo fa ammazzare. Imprigionerà l'anima del giovane stesso di Sergudai in una torre segreta nel suo regno senza sole. Il padre del ragazzo, che invece è un capo tribù molto distinto, affranto e così disperato che un giorno si imbatte in una persona, in uno straniero, che gli dice: guarda, una soluzione c'è, devi andare a trovare la sciamana più potente che abbiamo praticamente nella nostra terra e che vive praticamente nei pressi del fiume Nishan. Il capotribù lì per lì non crede, si chiama Bayan non crede alle parole dello sconosciuto, dello straniero, fino a quando vede che questo sconosciuto scompare in una nuvola arcobaleno e lui si sveglia di soprassalto. E siccome Bayan ha un grande e profondo rispetto dei sogni, sa di aver incontrato uno spirito alleato. Quindi obbedisce, parte e va a cercare la sciamana presso il fiume Nishan. Ovviamente si imbatterà in delle prove, ovviamente all'inizio non la riconoscerà perché vedrà questa fanciulla che lava il bucato, vestita in maniera molto semplice, fino a quando poi praticamente, superate alcune prove, riconoscerà che quella donna è Teteke. Arrivato da Teteke, con molta umiltà, gli chiede aiuto. E Teteke decide di aiutarlo perché legge il grande dolore che quest'uomo porta nel cuore. Ovviamente la fanciulla prende tutti i suoi strumenti, il tamburo, la tunica con i campanellini e le code di cavallo, appende al suo cuore uno specchio, uno specchio d'argento. E che cos'è lo specchio per Teteche? Per Teteche lo specchio è il vaso dell'anima, è il luogo dove può trasportare l'anima della persona, può traghettare all'interno dello specchio le anime delle persone. E per finire prende il suo copricapo con le corna da cervo. Quindi questa semplice ragazza parte e si reca nel luogo di sepoltura del cacciatore, del giovane cacciatore, ed inizia a suonare il suo tamburo. Chiederà però l'aiuto, chiederà di essere aiutata da uno dei suoi più cari amici, perché sa bene che sta per iniziare, per intraprendere il viaggio nel mondo ctonio, il viaggio nel mondo di sotto, nel mondo infero, e che è possibile che abbia delle difficoltà a tornare. E chiede all'amico di suonare insieme a lei il suo tamburo e di tenerla praticamente in vita. Teteke inizia una danza sciamanica, una danza ipnotica, una danza estatica, fino a quando non produce schiuma dalla bocca e tramortita, cade a terra. Ora, i poeti scrivono di Teteke che Teteke si addormenta morendo. Questa è una cosa interessante. Teteche chiaramente si accascia e si addormenta o muore, non c'è molta differenza, ma non è più la ragazza semplice che fa il bucato, ma è la grande donna di potere che attraversa la soglia, attraversa la nebbia, è accompagnata dal suo assistente amico col suono del tamburo, arriva alla torre segreta. Lì vede il giovane cacciatore e lancerà, Teteche lancerà un urlo talmente profondo, un urlo talmente profondo che parte dal cuore e dalle viscere per arrivare all'uccello sacro, che è il suo più forte alleato. L'uccello sacro vive nel mondo di sopra. L'urlo di Teteche attraverserà il mondo di sotto, il mondo di mezzo, quindi tutti quelli presenti alla cerimonia udranno questo urlo, e poi arriverà all'albero del mondo dove dorme l'uccello praticamente cosmico, l'uccello che le aiuterà nella sua opera. E quindi arriverà al mondo di sopra, quindi attraversa praticamente i tre mondi. E che cosa succede? Che l'uccello Garuda arriva spedito alla torre seguendo i comandi di Teteche, afferrerà l'anima del ragazzo, gliela consegnerà e la sciamana metterà il cacciatore, il ragazzo nello specchio. Una volta compiuta questa operazione, deve rientrare e il suo amico fedele suona sempre più intensamente perché sa che il ritorno di Teteche nel mondo di mezzo è molto rischioso, in quanto tante anime fameliche cercano di aggrapparsi alla sciamana nel viaggio di ritorno. Chiaramente gli animali totemici di Teteche faranno perdere le tracce faranno perdere praticamente le tracce di Teteche stessa, no? Ma nel momento in cui lei sta per risalire, l'anima del marito defunto, perché Teteche in realtà sembra giovane ma non lo è, è in realtà una vedova, si appende praticamente, le si aggrappa alla sua veste sacerdotale e le chiede: portami con te, portami con te. Teteche ovviamente dice che non poteva perché il suo corpo era già marcio e quindi lei non poteva riportarlo in vita. Non avrebbe potuto insomma, custodirlo, no? E quindi che cosa succede? Succede che i due iniziano a lottare e che lui le inizia a togliere tantissima energia maledicendola. A questo punto interviene un'altra grande alleata di Teteke, che è Mamma Omosi, che è la nonna divina, io la chiamerei la nonna ragno, quella che compare anche nelle culture americane, che stende le sue radici, la raggiunge, quindi Teteke afferra queste radici, si afferra queste radici e viene tirata su grazie alle radici di Mamma Omosi e grazie praticamente al suo amico, al suonatore Sanni, che suona vigorosamente il tamburo per riportarla nel mondo di mezzo. Ovviamente Tete che torna alla vita e porta l'anima che è custodita nello specchio nel corpo del ragazzo. Il ragazzo chiaramente vivrà. A questo punto, Teteke ha bisogno di noi, perché ci sono vari finali. Teteke diventerà famosa, avrà una grande fama, uno degli imperatori dei mondi della Manciuria la manderà a chiamare per salvare sua moglie, ma lei, stremata da questa impresa, dovrà negare il suo aiuto perché non è in grado di guarire più nessuno, perché ha fatto una cosa grandissima. Attraversato i tre mondi, e quindi questo imperatore la farà incatenare e la farà ammazzare. Un'altra versione, un altro finale, invece ci viene detto che il dio della morte si indigna con lei e che con il dio supremo ammazzeranno di botte Teteke durante la notte, fino a lasciarla stremata. In un altro finale ancora, Teteke viene ingiuriata dalla suocera di suo marito, perché essa stessa non è stata in grado di portare suo figlio indietro e quindi la maledice, la sveste di tutti i suoi poteri e la rinchiude in una fabbrica a lavorare. Chi ci racconta questo? Ci raccontano di questo finale alcuni etnografi, i quali ci dicono che questo è un finale tipico della cultura patriarcale, tipico di quello che viene fatto alle donne di potere in quella cultura. Ora, quando io ho sentito il finale di questa storia di Teteke, ho capito che doveva venire con noi, visto che nella scuola delle donne noi chiamiamo tutte le nobili antenate e gli diamo una nuova veste, sento che possiamo sognare assieme un finale diverso, anche perché non si sa veramente che cosa sia accaduto. Teteke è scomparsa. E sappiamo bene che molte donne, quelle popolazioni lì, per ammettere il loro potere di la loro, affermare il loro potere sciamanico, sognano, sono delle grandi sognatrici, e l'unico modo per essere riconosciute è proprio quello di sognare più intensamente degli altri. Tanto da mettere a repentaglio la loro vita. E quindi, salvando Teteke questa sera, salveremo anche con magari l'aiuto della principessa Sechida, con Mary Poppins e Mary Shelley e Frankenstein, andremo praticamente a salvare la nostra sciamana presso le popolazioni della Manciuria. Presso le popolazioni mongole. Siete d'accordo? È un'operazione che vi sentite di fare? Io direi proprio di sì, perché possiamo sognare tutti i finali diversi, no? Possiamo ridare una veste completamente diversa al potere e all'arte del sogno, in modo tale che quest'arte non venga ammazzata, anzi, le ridiamo nuovamente un posto. Questa è la mia idea.